Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Il 5 gennaio, vale a dire domani, partiranno i saldi nella maggior parte delle regioni italiane. Per le vendite di fine stagione però le previsioni sono tutte nel segno del pessimismo e a confermarle ci sono le prime notizie relative agli acquisti in Campania, Sicilia e Basilicata, dove i prezzi scontati sono partiti subito all'indomani di Capodanno, che parlano di negozi pressoché vuoti. Insomma, la crisi si sta facendo sentire, si farà sentire anche su questo fronte, ma ciò non significa che i saldi non siano una buona occasione per fare buoni acquisti a prezzi convenienti. E il calo previsto non potrà essere un buon motivo per abbassare la guardia in merito magari a finte offerte o comportamenti scorretti da parte dei commercianti, ma nemmeno per evitare pretese eccessive da parte dei consumatori. Insomma, commercianti ed acquirenti devono sempre avere ben chiari diritti e doveri reciproci e oggi a Salva Danaio torniamo a fare il punto anche su questo. Come comprare in questo periodo? Che garanzie cercare in questa nuova stagione dei saldi e soprattutto che tipo di previsioni stanno facendo le organizzazioni del commercio, che naturalmente non sono molto contento di come stanno andando le cose, anche perché dicono le famiglie in dicembre hanno dovuto sopportare molti sacrifici. Chiaramente tutta la responsabilità viene ricondotta sull'IMU, che chiaramente ha fatto sborsare a molte famiglie un bel po' di soldini, e quindi chiaramente le famiglie devono fare un po' di rinunce e magari proprio per questo motivo non potranno approfittare molto dei saldi. Cercheremo di capire stamattina allora che aria tira e soprattutto lo faremo grazie alla vostra collaborazione. Raccontateci, comprerete qualcosa in questi giorni? Avete aspettato proprio l'avvio ufficiale della stagione dei saldi per comprare quello a cui avete rinunciato magari tra novembre e dicembre, e sapete riconoscere anche le finte offerte? So che su questo tema molti commercianti si indispettiscono un po'. Già questa mattina ci ha scritto un'ascoltatrice, più tardi vi vorrei leggere la sua mail, perché ci ha detto: non fate come tutti i giornalisti che cadono sempre nel solito luogo comune, quello che racconta di commercianti che in questo periodo approfittano per mettere fuori in vendita tutto l'invenduto di magazzino di cui dispongono. Non è così, ci sono tante professionalità serie, io dico che sono quasi tutte serie, ci mancherebbe altro, neanche questa mattina dobbiamo fare il processo al mondo del commercio. Ci interessa capire invece in che stato di salute è il portafoglio degli italiani. Allora, con noi questa mattina Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia di Confcommercio. Torti, buongiorno e bentornato a Salva Danaio, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E poi naturalmente faremo un salto anche non solo nel commercio tradizionale ma anche tra gli outlet. Questa mattina ritorna con noi Luca Marsora, direttore marketing di Fashion District, che è un network formato da tre grandi outlet disseminati in Italia: Mantova, Valmontone, vicino Roma, e Molfetta. Marsora, buongiorno, benvenuto e buon anno anche a lei. Grazie, buon anno a tutti. Tra l'altro, ecco, il Fashion District è già partito con dei pre-saldi il 26 dicembre, anche questo chissà di che umore ha messo gli esponenti del commercio tradizionale. Poi con noi Pasquale Giglio, direttore regionale di Confesercenti Campania, perché qua vogliamo monitorare un po' quelle regioni dove i saldi sono partiti e se dopo una partenza che è stata invece un po' l'insegna delle difficoltà, magari tra ieri e l'altro ieri le cose si sono rimesse un po' più a regime, le cose stanno andando meglio. Giglio, buongiorno, benvenuto, buongiorno. E buon anno anche a lei, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, come sempre, ampia disponibilità di utilizzo del nostro microfono da parte degli ascoltatori. Potete chiamarci all'800240024, scriveteci i vostri commenti al 349-238-6666, scriveteci su salvadanaio@radio24.it, commentate pure il tema del giorno su Facebook all'indirizzo salvadanaio, al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Prima dei saldi però la borsa. Giornata di cautela fra le borse del vecchio continente, perché dicono gli operatori oggi siamo tutti in trepidante attesa del dato che verrà diffuso nel primo pomeriggio. Arriverà dagli Stati Uniti il dato sull'occupazione americana di dicembre. Poi a creare un po' di nervosismo, come dicevamo anche nel giornale radio, il contenuto dei verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana che sono stati diffusi ieri sera. Allora, come sapete, per aiutare l'economia la Federal Reserve negli ultimi almeno 2 anni ha messo in campo molte iniziative di stimolo monetario, fra questi anche un programma di acquisto di obbligazioni del tesoro statunitense. Sono le varie operazioni di quantitative easing, lo dobbiamo dire in inglese, ma poi la traduzione appunto dell'operazione in concreto è questa: acquisto di obbligazioni. Allora pare che tra gli esponenti della Federal Reserve ci sia un po' di disaccordo sulla necessità di continuare questo programma o sulla necessità di interromperlo, e questo appunto è abbastanza evidente da questi verbali diffusi ieri sera, e anche questo ha creato un po' di nervosismo appunto fra gli operatori quest'oggi. Ecco le borse: Parigi meno 0,43%, Francoforte meno 0,15%, Londra meno 0,08%, Milano meno 0,32% sul FTSE MIB. Recupera il dollaro sull'euro, il rapporto di cambio è a 1,3009, rapporto euro-dollaro. La borsa italiana, vediamo un po' quali sono i titoli protagonisti di questa seduta. Tra l'altro non ho ricordato che questa mattina sono riprese le contrattazioni a Tokyo e l'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un rialzo del 2,82%, livello più alto mai toccato da prima del sisma che ha colpito il Giappone nel marzo 2011, e naturalmente Tokyo ha recuperato quello che le borse europee avevano fatto negli ultimi giorni, quindi ha raccolto tutta l'euforia degli investitori dopo l'accordo americano che ha evitato il precipizio fiscale. Parlavamo di Piazza Affari, vorrei raccontarvi un paio di casi, a cominciare da quello Monte dei Paschi, più 7% per il titolo senese, titolo che la banca che ha chiesto i Monti Bond, come ricorderete. Oggi scatto molto forte delle azioni di Rocca Salimbeni. Perché? Perché lo spread scende, quindi fa bene a tutte le banche. Siamo a 275 punti base questa mattina. Poi perché pare che ci sia questa ipotesi di un'eventuale modifica dei termini sulla normativa bancaria europea, ovvero Basilea 3. Il Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea si riuniranno il 10 e il 15 gennaio per trovare un accordo sulle tempistiche di introduzione delle regole che, se fossero un po' meno stringenti, magari appunto le banche festeggerebbero anche grazie a questo. Popolare di Milano più 2,20, Fiat più 1,62 dopo i dati sulle matricolazioni di ieri arrivati dal Brasile. Là si vende moltissimo per il lingotto, per cui il titolo chiaramente ne beneficia. I titoli invece in negativo: abbiamo Ansaldo meno 1,78%, Tenaris meno 1,66%, Finmeccanica meno 1,42%, Telecom meno 1,39%, Parmalat meno 1,34%. Lasciamo la borsa, andiamo adesso invece al tema di oggi. Vi ricordo 800 24 00 24 per esprimere i vostri commenti sul tema, ma soprattutto per raccontarci quello che sarà il vostro orientamento in questi giorni. Parliamo di saldi, che a quanto pare anche loro vanno in crisi. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. Nel prossimo weekend la Befana, come da tradizione, porterà via con sé tutte le feste e ci lascerà una nuova stagione di saldi invernali. Stando alle attese, sarà più difficile vedere le corse all'ultimo paio di stivali, gli strattoni da un lembo all'altro di un vestito per aggiudicarsi l'ultimo capo della propria taglia, le file di clienti accampati in attesa dell'orario di apertura. Complice la crisi, per l'inizio di questo 2013 si annunciano saldi sottotono, con le prime voci in arrivo da Sicilia, Campania e Basilicata, dove le svendite sono partite il 2 gennaio, che parlano addirittura di negozi semideserti. Confcommercio prevede un calo del 7-8% rispetto all'anno scorso, pur stimando un giro d'affari che ammonta a 6 miliardi di ricavi. A Roma, la Confesercenti provinciale prevede che la spesa a famiglia si attesterà in media intorno ai 300 euro, mentre a Torino l'Ascom prevede una spesa media per famiglia di circa 260 euro, contro i 300 dell'anno scorso. Il 56,7% dei torinesi ha intenzione di fare acquisti, secondo un sondaggio di Confesercenti, ma il 37,2% ha fissato un budget inferiore a 100 euro. In Toscana, stima sempre Confcommercio, in media ogni famiglia spenderà 359 euro, il 9% in meno rispetto allo scorso anno. In ogni caso, i saldi potranno rappresentare una buona occasione per consumatori ed esercenti, e il calo previsto non potrà essere un buon motivo per abbassare la guardia in merito a finte offerte, truffe e comportamenti scorretti, ma nemmeno per avanzare pretese eccessive. Commercianti e acquirenti dovranno avere ben chiari i diritti e doveri reciproci, solo per fare due esempi. La possibilità di provare i capi è affidata alla discrezionalità del negoziante, che invece è obbligato a indicare prezzo iniziale, sconto e prezzo finale. Per evitare problemi, sarà bene diffidare degli sconti eccessivi e conservare sempre gli scontrini, nella speranza di non trovarsi pieni di carbone, ma incontrare una Befana amante dello shopping, pronta a riempire la calza di buone occasioni e ottimi acquisti. La Befana se ne va. Eccoci qua, allora avete sentito previsioni diverse, formulate da osservatori diversi, chiaramente ci sono dati che sono diffusi dalle organizzazioni del commercio, dati diversi, forse un po' più negativi, diffusi dalle associazioni dei consumatori, in ogni caso sono tutte previsioni contraddistinte da un denominatore comune che è il segno meno e quindi insomma quest'anno per i saldi sarà una stagione un po' più difficoltosa rispetto al solito. Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia di Confcommercio, questa mattina un nuovo report diffuso da parte della vostra organizzazione, avete appunto effettuato un'indagine sui saldi invernali 2013 realizzata proprio da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Sono dati allineati rispetto a quelli che abbiamo già sentito, sono ancora più preoccupanti. Torti, appunto, quali sono le previsioni per questi saldi 2013? Guardi, le previsioni sono, come è stato anticipato, non rose, però diciamo che i saldi rappresentano sempre un appuntamento irrinunciabile. È un rito collettivo di straordinaria importanza, sia dal punto di vista economico anche sociale. Prima c'è stata qualche indicazione di dati. Come Confcommercio, Federazione Moda Italia, abbiamo stimato un volume d'affari sui 5 miliardi e 600 milioni all'anno per quest'anno. E diciamo che questo vale la pena di considerarlo un evento importantissimo ed irrinunciabile. Sono 359 mediamente gli euro spesi da ogni famiglia italiana e numerosissimi sono anche gli stranieri amanti del Made in Italy che vengono in Italia apposta per i saldi. Quindi questo è il punto di vista economico. Dal punto di vista sociale i saldi rappresentano anche la possibilità di soddisfare un desiderio o maggiormente in questo periodo storico una necessità. Perché si dà la possibilità ai consumatori di acquistare un capo di qualità a un prezzo accessibile. La ricerca di Format Confcommercio, proprio uscita oggi, condivide questa linea, tant'è che dice anche che l'89,2% dei consumatori ritiene molto o abbastanza buona la qualità dei prodotti a saldo, mentre il 74,8% ritiene molto o abbastanza buona la varietà dei prodotti a saldo. Questi due dati indicano un chiaro interesse dei consumatori per la qualità dei prodotti venduti, ovviamente anche per il prezzo, però la qualità ha un valore aggiunto soprattutto per i prodotti comprati nei negozi tradizionali, quelli di vicinato, multimarca che noi rappresentiamo. Anzi, forse la ricerca della qualità direi che magari negli ultimi anni è stata magari anche un pochino di più forzata, stressata, perché potendoci permettere magari qualche capo in meno, magari si aspetta a fare l'acquisto e lo si ricerca chiaramente di un certo livello, no? Torti, magari forse la crisi ha indotto anche un comportamento nuovo, un comportamento di questo tipo. Sicuramente ha indotto nei consumatori questo comportamento e l'abbiamo visto anche nel periodo natalizio. Nelle vendite di Natale sono andate soprattutto accessori, pelletteria, intimo, scarpe, prodotti che hanno un certo prezzo, una certa qualità, ma comunque di una fascia di prezzo abbastanza bassa rispetto a quella che è possibile permettersi con una certa qualità nel periodo dei saldi, e mi riferisco agli abiti, ai capispalla, ai cappotti, ai piumini, agli impermeabili, questo genere di capi. E Torti, i commercianti aderenti alle vostre organizzazioni hanno dovuto forzare la mano un po' più sugli sconti praticati quest'anno? Hanno dovuto fare qualche sacrificio in più? Prezzi ancora più bassi rispetto al solito? Guardi, sicuramente non sono aumentati i prezzi, sicuramente nell'ambito dell'abbigliamento e delle calzature, questo proprio per venire incontro alle esigenze del consumatore, le esigenze di portafoglio che è sempre più vuoto, più ovviamente che con tutte le tasse, prima si è citata la tassa che noi abbiamo anche enfatizzato con una tassa ammazza consumi, l'IMU, sicuramente nel periodo natalizio è venuto meno questa possibilità per gli acquirenti di poter spendere in abbigliamento un bene non primario, ma che comunque per il gusto, il bello che l'italiano ha, è amante del gusto e del bello, continua a reggere però con una perdita notevole nel tempo, e questa di quest'anno è quanto mai drastica. Vi leggo subito qualche messaggio. Antonio ci scrive: trovo i saldi una presa in giro, le cose belle firmate non sono mai in saldo, solo scontate di poco. Antonio, io immagino che magari per i negozi di prossimità come quelli che ha indicato Torti, cioè bisogna anche in questo caso guardarsi un po' intorno, no? Magari anche lo stesso capo bello e di grande qualità che lei ritiene non venga scontata a sufficienza, magari circolando un po', girando un po' in un altro negozio viene scontato un po' di più, almeno credo, però prendo chiaramente atto anche della sua considerazione. Non vi dico poi quanti commentano il fatto della pioggia di tasse che è arrivata appunto negli ultimi mesi, che impedisce effettivamente di divertirsi un po' con gli sconti di questo periodo. Anna, un'altra bella riflessione: ho 64 anni, benestante, pensavo di acquistare qualcosa di sfizioso, ho aperto l'armadio, ho preso atto della quantità di indumenti che ho, mi sembra sciocco continuare ad acquistare. Questo è un tema che non ha molta attinenza chiaramente con la stagione dei saldi, perché pensiamo anche a quelle famiglie dove ci sono magari un paio di bambini che continuano a crescere e magari una mamma e un papà proprio in questo periodo approfittano dei saldi per arricchire quel guardaroba, che non va arricchito così solo per togliersi lo sfizio, ma perché necessariamente i bambini devono anche con l'abbigliamento essere accompagnati nella crescita. E allora tante riflessioni, andiamo un po' a sentire in Campania, che è stata la prima regione a partire con i saldi il 2 gennaio insieme alla Basilicata e alla Sicilia, come sono andate le cose. Pasquale Giglio: un po' di scontentezza ho letto dai primi commenti appunto di questi giorni, adesso addirittura c'è chi dice negozi deserti, mi sembra esagerato, magari come dire i clienti entrano, guardano, si guardano attorno ma non acquistano tanto, insomma che clima c'è? Non meteorologico ovviamente. Sì, quello c'è stato, buongiorno a tutti, c'è stato ieri che maltempo, quindi diciamo ieri l'altro in cui effettivamente c'è stata moltissima difficoltà per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, che, diciamo, di cui noi in qualche modo rappresentiamo in maniera massiccia. Confesercenti e Campania ha fatto un sondaggio in questi giorni con diciamo un po' in tutte le città province della regione Campania, quindi Salerno, Benevento, Avellino, Caserta e Napoli, e in qualche modo effettivamente diciamo viene confermato un calo rispetto all'anno scorso del 10% in meno sulle vendite in saldi. Devo però fare una premessa: qui in Campania la settimana scorsa è stata approvata una legge diciamo in cui c'era un articolo che sospendeva diciamo la non vendita del promozionale per un anno, cioè mettevamo una legge regionale, una del 2000, che vietava nel periodo natalizio e nei 40 giorni antecedenti ai saldi le vendite promozionali. Invece con questo articolato di legge abbiamo avuto che nel mese di dicembre si è potuto anche svolgere le vendite promozionali. E che un po' come è successo in Lombardia lo scorso anno, lo stesso, non c'è stata questa deroga alla normativa. Non con successo. Dalle informazioni assunte presso i nostri dirigenti e associati in Campania, diciamo, le vendite non sono andate bene. Tra l'altro io voglio ricordare che qui in Campania... Quindi né con le vendite promozionali grandi soddisfazioni, né adesso con l'inizio dei saldi, diciamo non è servita molto, ritiene non lei? Non è servita molto, ma perché c'è una situazione economica molto molto diciamo preoccupante qui in Campania. Abbiamo avuto il dato che c'è la proroga per i lavoratori socialmente utili fino al 28 febbraio, voglio dire, sono potenziali consumatori nostri, diciamo che c'è tutto un'attività in cui se non c'è la possibilità di poter lavorare, poter come dire, beneficiare di alcune cose, poi chi li risente in primo luogo poi sono le attività commerciali, e questo è un dato diciamo che in qualche modo sta a una percentuale maggiore rispetto alle altre regioni, parliamo del 10% in meno quest'anno. Certo, allora tra l'altro lei, ricordandoci come anche la Campania abbia adottato questa sorta di deroga alla legge che impediva tradizionalmente di effettuare delle vendite promozionali in periodo periodi non ufficiali, come dire, questo è un tema che poi ci dà l'opportunità di ritornare sull'altro grande tema tradizionale ogni volta che affrontiamo stagionalmente la questione dei saldi, quindi a gennaio e a luglio, cioè il tema della liberalizzazione dei saldi tutto l'anno. Qua chiaramente ci sono delle normative che è giusto che vengano rispettate, però ci sono poi anche le singole iniziative naturalmente dei vari commercianti che magari, pur non aderendo e pur non avendo il contorno legislativo ufficiale, magari possono anche muoversi appunto individualmente. Qualche volta la clientela più fedele chiaramente pratica degli sconti, anche se poi appunto l'organizzazione del commercio o la legge regionale e locale appunto non consentirebbe di farlo. Però insomma, come dire, una sorta di liberalizzazione da qualche tempo c'è già, abbastanza radicale nel nostro paese in questo settore. Poi chiederò ai miei interlocutori appunto se sono d'accordo. Prima di abbiamo tra poco già la prima pausa, poi vorrei sentire anche un po' il mondo degli outlet, che tipo di stagione sta vivendo tra la crisi appunto e invece gli sconti costanti in queste strutture. Però prima un'esperienza appunto di un'ascoltatrice che è Ilia da Roma. Ilia, non so bene dove mettere l'accento sul suo nome, buongiorno. Buongiorno signora, sono Ilia, senza Ilia, accento. Perfetto. Sì. Allora, che cosa le è successo? Le racconto la mia esperienza. Io sono andata giorni fa in centro, nella zona Prati, con mia figlia per fare delle commissioni. Abbiamo fatto un giro di negozi. Avevo bisogno di comprare un piumino leggero, perché a questa età questi cappotti di lana pesanti. Io sono una 66enne, quindi preferisco un piumino caldo. Ma bravo, sei giovanissima Ilia, complimenti. La ringrazio. Ma malgrado ciò ho visto questi negozi, dico vabbè, tanto siamo qua una settimana, dico aspettiamo i saldi, perché si vede con la... lavoro ancora, ma sono pensionata. Ma le basti pensare che io stamattina ho preso la metro, sono uscita di casa, ho lasciato la macchina a Marconi, sono andata in Prati con la metro. Le posso assicurare che di tutto ciò che avevo visto non c'era nulla. Allora mi domando, tutte delle cose obsoleto che sinceramente, per amor di Dio, per la mia età andrebbero pure bene, però mi rendo conto che non mi piacevano e mi sono inghignata sul serio. Poi entrando in macchina, ritornando indietro, ho sentito voi e mi sono detta no, queste cose vanno dette, perché non è giusto che... È vero che io sono un ex commerciante, per cui più di me non può capire nessuno la difficoltà in un contesto così, in questo momento, nel contesto commerciale quanto è dura, però non si fa, cioè almeno qualcosa di più garbato, di più aveva moderno. Aveva provato a chiedere, no? Sì certo, Ilia, aveva provato a chiedere al commerciante in questione magari questo capo che mi piace, lo mette in saldo. Mi ha risposto, no signora, io non so dirle. Beh, giustamente la commessa, cosa vuole che dica? Stanno lì, anzi devono stare zitte proprio. Perché se no a casa, no, assolutamente. Va bene. Però, insomma, io mi rendo conto che però questa anomalia è molto, come dire, non è a macchia di leopardo, è quasi generale. E questa è la verità. Volevo leggere anche questa mail che è arrivata questa mattina dalla nostra ascoltatrice Nicoletta, che ci racconta: avrei piacere che nella sua trasmissione non cadeste nella classica banalità di mettere il consumatore in guardia dai cosiddetti fondi di magazzino. E qui mi richiamo anche alla racconto che ci ha fatto prima Ilia da Roma, facendo così passare il commerciante per un imbroglione assodato. Adesso non vorrei neanche utilizzare questi termini, perché non è nostro costume farlo. Al contrario, vorrei sottolineare che i veri affari si fanno proprio con questi capi, perché vengono proposti a prezzi vantaggiosissimi. Faccio presente che il consumatore non viene costretto, ci mancherebbe, all'acquisto da nessuno, e compra dopo aver toccato, provato e valutato il prezzo del prodotto. Io personalmente, anche se vivo quotidianamente nel mondo della moda, la seguo solo se mi piace, e se vado a comprare un paio di scarpe le compro se ci sto bene dentro e se sono di mio gusto, e non me ne frega niente se hanno 5 anni, visto che spesso quelle di moda non mi piacciono. Questo comunque è un altro tema. Il tema è invece quello centrato, quello che indicava l'ascoltatrice di Roma. Voglio sentire un commento di Massimo Torti di Federmoda Italia. E allora, insomma, magari fino al 28 dicembre abbiamo visto delle belle vetrine, magari proprio in intercettando, individuando il capo che ci piaceva, parte la stagione dei saldi. Domani a Roma mi pare che invece l'ascoltatrice abbia già intercettato qualche sconto appunto tra i negozi prescelti, e quel capo che si voleva non si trova più, vengono rivoluzionate le vetrine, giustamente, non è che il commerciante non possa farlo. E però insomma i capi belli passano dietro le quinte. Che succede, Torti, ma perché? Guardi, innanzitutto volevo rispondere all'ascoltatrice Ilia, perché ha detto una cosa importante, cioè oggi siamo il 4, i saldi iniziano il 5, Quindi le cose che sono in vetrina oggi potrebbero non esserci domani, come le cose che erano in vetrina la scorsa settimana sono cambiate questa settimana. Quanto alla qualità, ai fondi in magazzino, la cosa, io prima ho citato appunto quei dati del sempre di Format Research con Confcommercio dell'indagine, perché diceva che il 90% praticamente dei consumatori rilevavano buona, se non ottima, la qualità dei prodotti venduti in saldo. Detto questo, in un momento così drammatico, e lì sono d'accordo con l'intervento precedente che parlava appunto di che i commercianti stanno subendo proprio per il calo delle vendite e la crisi dei consumi, che forse la più grave di quella dal dopoguerra, praticamente i prodotti che vengono messi in saldo saranno innanzitutto come quantità, qualità, prezzo decisamente superiore a qualsiasi altro prodotto dei saldi precedenti di tutti gli altri anni, proprio perché i nostri esercenti hanno i magazzini ancora pieni di merce autunno-inverno di quest'anno, della passata stagione, cioè del 2012. Arrivati al 2013 non possono tenerli per il prossimo anno, perché noi sappiamo che la merce in saldo, e la stessa legge lo prevede, è quella merce di moda, quei prodotti di moda che, se non venduti entro un certo periodo di tempo, sarebbero suscettibili di un notevole deprezzamento. Lo so, ma il consumatore questo, come fa ad individuare che è esattamente quel capo lì? No, basta andarci la settimana prima e chiedere se quel prodotto è in saldo e quindi o il mese prima, cioè nel senso che comunque si rende conto il consumatore. Io adesso volevo dare anche io essendo stesso anch'io consumatore, cioè i consumatori sono anche capaci di intendere e di capire se un prodotto è buono o se un prodotto non è buono. Allora sono appunto d'accordo con la precedente ascoltatrice che ha detto ma io posso valutare, al massimo non la compro, cioè nessuno obbliga a comprare in saldo, è un vantaggio per il consumatore e è un vantaggio non solo per il consumatore in questo momento, ma anche per il venditore, perché come le dicevo prima, cioè con i saldi si perde margine e quindi il venditore non ha interesse ha interesse a vendere nella stagione, però con i saldi deve fare liquidità. Prima lei ha parlato anche della situazione delle banche con Basilea 3, il problema dei commercianti è un problema anche di liquidità, di far ricorso, perché noi compriamo 8 mesi prima per la stagione che verrà, quindi la primavera estate, quindi se non facciamo cassa, cioè liquidità nel periodo di stagione, e non la facciamo pure nei saldi, per quello che dico che la qualità sicuramente è alta e il sondaggio di Format Research con Confcommercio con il 90% dei consumatori che si definisce molto soddisfatto di degli acquisti comprati, della qualità degli acquisti comprati in saldo, allora secondo me il dubbio, soprattutto adesso in questo periodo, ecco, magari il dubbio potrebbe esserci se il prodotto ha una percentuale di sconto superiore, non so, al 70%, perché allora a quel punto un commerciante non può vendere dei prodotti che vadano una soglia in condizioni normali, che vadano sopra il 30% di sconto. Lo fa nei saldi, che arrivando fino al 50%, proprio perché ha bisogno di liquidità. Ecco, allora oltre quella soglia, cioè quando si arriva al 60-70%, allora uno può capire benissimo che lo fa per il prezzo, non più per avere il prodotto di quella stagione. Comunque, per tornare insomma all'ascoltatrice di Roma, peraltro altri ascoltatori da Roma, oggi evidentemente la città nella quale si parla di più di tutte di questo argomento oggi, il tema dei saldi. No, appunto, io condivido quello che lei diceva, è chiaro che il commerciante che non adotta delle regole di comportamento totalmente trasparenti nei confronti del consumatore, quindi questo cambio, questa questione della vetrina che ci ha raccontato l'ascoltatrice, se il consumatore se ne accorge, quello è un consumatore perso, esatto, per cui è chiaro che... Va bene, allora, volevo sentire un attimo Marco da Roma, poi vado a Fashion District. Marzola, adesso arrivo da lei. Marco, buongiorno. Buongiorno e complimenti, perché è molto interessante la cosa. Ma per quanto mi riguarda, io dico questo, è una considerazione che io faccio. Considerando, diciamo, lo stato, diciamo così, della situazione economica, della crisi, io ritengo che, per quanto mi riguarda, o per quanto riguarda la maggior parte delle persone, ritengo che i prezzi di alcuni capi di abbigliamento, non parliamo di grandi ditte, di grandi firme, sono molto elevati, in quanto ci sono delle ricariche applicate, sono elevatissime, il doppio e della volta anche il triplo. Per cui ritengo che saldi sono relativi, perché il massimo si ottiene un 50% di sconto, massimo, e sono cose poi oltre di magazzino. E poi ci dicono anche che dobbiamo un pochino dubitare quando lo sconto è così alto. Esatto, gli stipendi sono quelli che sono, anzi, sono stati tagliati per la crisi, perché le aziende hanno tagliato cassa integrazione, non parliamo di altre formule, per quanto di conseguenza le cose... Non è possibile trovare ancora dei capi d'abbigliamento, parliamo di più... Ci faccio un esempio, Marco, qual è secondo lei, ecco, un capo d'abbigliamento che costa troppo? Ma guardi, dai cappotti ai piumini, ci sono delle ditte, in parte sono delle ditte che non fanno totalmente i saldi, per non fare nomi e non fare pubblicità. E vabbè, però ma sono delle libere scelte, uno non ci va... Sono libere scelte, però la maggior parte di altri capi, gli sconti sono ancora troppo... cioè i prezzi sono troppo alti, pagare 300-400 euro ancora un cappotto o un piumino, mi sembra una cosa sinceramente esagerata. Vabbè, ma non se un cappotto di qualità, un bel cashmirino, magari, Marco, non è che voglio dire questi prodotti si facciano a 50 euro, si producano, perché comunque ancora... No, per fortuna parliamo di un paese che ha un livello della manodopera elevatissimo, ecco, quindi non parliamo. Però 400-500 euro ancora per un cappotto, quando uno stipendio sono 1200-1300 euro, chi riesce a prenderlo? Questo c'è anche. Questa sproporzione però c'è stata sempre, adesso come dire, un po' l'esempio del cappotto, che è un capo che magari uno non è che compra tutti gli anni, ma... no, però comunque io prendo atto della sua riflessione, per lei io la vedo in maniera un pochino diversa, però sentiamo un po' adesso i commercianti cosa dicono. Ma vado tra poco di nuovo da Torti, ma prima volevo andare a Luca Marzola per capire se il nostro ascoltatore, venendo in un outlet, può trovare il cappotto dei suoi sogni a prezzi ancora più bassi. Marzola, adesso a parte gli scherzi, voi non avete aspettato i saldi, negli outlet si possono fare anche i pre-saldi, non so quanto potranno scattare sulla sedia i commercianti, ma insomma in queste strutture che clima si registra? Un clima di così cupo, di pessimisti che frequentano i vostri centri? Qual è la situazione? Ma intanto vorrei correggerla, nel senso che questa iniziativa che richiama pre-saldi, è già la definizione non è prettamente corretta, non è un'iniziativa riservata al format outlet, bensì nel caso si riferisce nello specifico al nostro outlet di Mantova, è una iniziativa che noi possiamo mettere in campo in quanto la regione Lombardia ha in qualche modo sospeso la moratoria pre-saldi fino al 30 giugno del 2013 e ovviamente la sospesa per tutte le forme di retail, non solamente per quello per la forma outlet, ecco, per cui lo possiamo fare noi come lo può fare un negozio del centro di Milano, è chiaro. Certo. Poi noi l'abbiamo cercato di sfruttare al massimo questa opportunità, soprattutto perché l'outlet di Mantova è stato un outlet anche piuttosto colpito la scorsa stagione, ad esempio dal sisma emiliano, in quanto tanta parte della nostra clientela proviene dalle province di Modena, dalle province di Reggio Emilia, e devo dire che ci saranno dei risultati piuttosto interessanti, perché il mese di dicembre, quando noi abbiamo concentrato, diciamo soprattutto dopo il Natale, la nostra comunicazione in proposito, abbiamo avuto dei dati, abbiamo avuto dei dati, per meglio dire, molto molto confortanti, soprattutto dopo un avvio stagionale di ottobre, di novembre, che invece è stato abbastanza triste anche per questioni meteorologiche, ma indubbiamente, diciamo, il dato di dicembre ci sta confortando sia nella nostra scelta sia in generale. Stiamo avendo sia in termini di affluenza che in termini di volumi d'affari dei dati importanti. Senta, in tutti e tre i centri, perché voi siete ben rappresentanti al nord, al centro e al sud, viaggiano tutti con lo stesso ritmo o ci sono delle differenze? No, in generale devo dire che noi, avendo questo osservatorio naturale, direi su queste tre macro regioni italiane, possiamo dire che il nord, Mantova, ha retto comunque sempre piuttosto bene la crisi in generale, al centro addirittura mostrando anche qualche dato positivo, che nel 2012 dati positivi, dati con un segno blu, sono stati abbastanza rari per quello che ne sappiamo, anche per quello che riguarda i nostri concorrenti. Valmontone ha retto abbastanza, mentre al sud devo dire che il nostro outlet di Molfetta, a nord di Bari, ha segnato un pochettino di più il passo, facendoci capire chiaramente che la crisi ha morso di più, diciamo, nelle regioni centrali e soprattutto nelle regioni meridionali. Ovviamente, lo sa perché gliel'ho chiesto, perché c'è un ascoltatore di Barletta che effettivamente ci raccontava, lui frequenta il fashion district di Molfetta e ci diceva effettivamente sempre, adesso utilizza un termine, mi perdoni, leggo l'ascoltatore Marzola, è quasi sempre deserto perché i prezzi sono comunque altissimi, altro che sconti. Ah, è tramontato il mito dell'outlet? Mi tramonta così? Allora, Devo dire che i prezzi sono tutt'altro che alti, ma in generale, devo dire, nella zona barese, in Puglia in generale, i prezzi sono molto molto compressi al ribasso in generale, da noi devo dire in modo particolare. Comunque non è vero ovviamente che l'outlet è deserto, perché comunque chiudiamo l'anno con circa 2.300.000 presenze, che è un dato comunque piuttosto positivo. Certo. Peraltro, per quello che riguarda l'outlet di Molfetta, c'è da dire una cosa molto interessante a mio giudizio: lo stiamo riqualificando, l'abbiamo rivisto totalmente durante l'anno dal punto di vista immobiliare. Questo è stato obiettivamente penalizzante per il consumatore, che l'ha trovato parecchie volte transennato con dei lavori in corso e comunque lo riqualificheremo anche dal punto di vista proprio dell'offerta, creando quello che a nostro giudizio diventerà il primo outlet di seconda generazione, inserendo al suo interno anche una formula full price, in modo da differenziarci. Siccome voglio far arrabbiare Massimo Torti, fino alla fine ci metto insieme, dopo il racconto di Luca Marzora di Fashion District, anche il commento di Riccardo da Roma, un altro ascoltatore romano. Buongiorno Riccardo, buon anno anche. Riccardo, molto buongiorno. Sì, buongiorno, ci dica. Un ex negoziante, allora, no. Lei, sì. Io sono un ex negoziante e adesso rappresentante d'abbigliamento. Le voglio dire due cose: che gli ultimi due clienti che ho sentito, è giusto che vadano agli outlet, perché loro non comprano il prodotto ma comprano lo sconto. È quello che le aziende hanno fatto in tutti i modi per cercare di dare concorrenza ai stessi negozi che loro vendono, e quindi automaticamente loro aprono gli outlet, fanno pubblicità, diciamo, tramite le boutique, e poi loro si possono permettere di fare dei sconti. Quindi io dico questo qui. Prima cosa, fino a 7-8 anni fa io avevo il negozio e massimo facevo un 20-30% di sconto nei saldi, che non erano a gennaio ma erano già più avanti, ed è erano vero, anche io mi ricordo infatti in passato quando partissero, ecco, molto più tardi, cioè. Perché vendere un giubbotto, come dice la signora, con tutte le scelte al 40% al 5 di gennaio, allora io chiudo i negozi, come stanno facendo molti negozi, perché se uno deve fare un regalo, allora infatti adesso i negozi non si troveranno quasi più e tutti andremo a fare le compere a 50 km da Roma, fuori, nei centri commerciali. Cioè, è questa la... E quindi, insomma, allora lei come la... Allora, io capisco le esigenze dei commercianti, perché poi... Ma certo, in che senso? Di ricarico chi ce lo mette? Nel senso, come le spiego, io dalla lira all'euro... avevo delle maglie che vendevo a 100.000 lire, le ho messe a 52 euro, la gente, dopo un giorno che avevo fatto dall'euro, che era la mia cliente da tanti anni, mi entrava dentro e dice: ah, queste costavano 52.000 lire, le ho messe a 52 euro. Allora, nel senso, allora hanno ragione dire i che consumatori, il cliente finale purtroppo vuole essere preso in giro, le aziende, i grossi gruppi l'hanno capito. E quindi di conseguenza ormai, se non c'è un 30-40%, il cliente non compra. Gli hanno fatto questo lavaggio del cervello e quindi le boutique, l'unica arma che possono avere secondo me per andare avanti, è vendere prodotto italiano senza marchio, e avere quindi la possibilità di andare avanti, perché se tutti i negozianti fossero ricchi, non capisco per quale motivo chiudono tutti questi negozi. Io vorrei chiedere questo alle persone. Allora Riccardo, la ringrazio, adesso stiamo andando verso la chiusura. Per la verità lei ha posto l'accento su diversi punti, non saprei da dove cominciare. Massimo Torti, ritorno da lei. Adesso io non ce lo vedo neanche, un consumatore così sprovveduto che si presenta al negozio e subisce tutto quello appunto che l'ascoltatore diceva, un ex commerciante che naturalmente ha subito sulla sua stessa pelle gli effetti della crisi, del changeover di qualche anno fa e tutto quello che vogliamo dire. Detto questo, appunto, Torti, da che cosa vuole cominciare? Intanto, insomma, gli outlet sono molto agguerriti e quest'anno vi daranno ulteriormente filo da torcere. Sì, premesso, guardi, che noi ovviamente siamo favorevoli a un pluralismo distributivo, perché comunque garantisce un pluralismo di offerta. Prima si diceva, l'intervento ancora prima diceva che ci sono delle aziende che vendono a 300-400 euro un più o meno, ma è logico, ce ne sono altre che ne vendono a 50-60 euro un più o meno, quindi cioè, il pluralismo distributivo serve a quello. Ma premesso questo, e premesso anche che gli outlet siano importanti, in realtà realtà che non possiamo sottovalutare, che ci sono e come dicevano prima attraggono moltissimi consumatori. Però è difficile credere, guarda, in Italia ci sono 700.000 metri quadri di superficie sì. Di outlet, sono 29 in Italia gli outlet e qualcuno sta per sorgere anche quest'anno. È difficile credere che si alimentino solo con le rimanenze, sapendo come funziona in Italia, cioè praticamente il produttore raccoglie gli ordini totali e poi produce, e quindi ci domandiamo anche noi, cioè come si fa ad avere delle eccedenze quando in teoria c'è una previsione di vendita e una che poi dà origine ad una produzione. Quindi anche questo, cioè i prezzi vanno sempre guardati con attenzione. E in più, per quanto riguarda il ricarico, le percentuali di ricarico nei commercianti, io le dico solo una cosa, al commerciante soprattutto in questo momento di crisi dei consumi resta ben poco, tasse, ovviamente energia elettrica, riscaldamento, l'illuminazione, tutto quello che può portare, ma lei pensi anche cambiarsi, anche non so, tanto per dire, per provare un capo deve esserci caldo, non può esserci l'illuminazione per trovare, comunque tutte queste contribuiscono e sono tutte cose in situazioni economiche che vanno a gravare sul vantaggio per il commerciante. Le dico ancora di più, i produttori, oltre ad aprire gli outlet, cioè aprire nuovi canali di vendita come outlet online eccetera eccetera, non ritirano l'invenduto, quindi questo, quello che resta appunto dopo i saldi, resta e che non può essere venduto al prezzo di prima, resta nei magazzini dei negozianti. E ultima cosa, e questo ci deve far ragionare, che anche rispetto a quello che diceva Riccardo prima, nel soli primi mesi, 9 mesi del 2012, sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, sulla nati mortalità quindi le aperture e le chiusure dei negozi di abbigliamento, pelletteria, accessori, calzature, articoli sportivi, abbiamo in Italia 5.186 negozi in meno, negozi tradizionali, quindi vuol dire che sono morti 9.500, cioè hanno chiuso 9.541 aziende e ne hanno aperte soltanto 4.355. Questo saldo negativo va a dimostrare che il commerciante, il ricarico per il commerciante si assottiglia sempre di più. E questo per quello, e qui vorrei proprio dare un valore aggiunto a quello che si voleva dire prima sulla qualità della merce venduta nei periodi dei saldi. Ecco, i saldi rappresentano un'opportunità non solo per il commerciante per continuare a vivere e ad avere la liquidità per comprare la stagione successiva, ma anche per il consumatore, perché lì sicuramente prende la qualità. Un'altra cosa che volevo dire, sì, e chiudo, sono i saldi chiari. Saldi chiari, tranquilli. Volevo infatti ricordarlo anche perché voi avete iniziativa. Insieme ai consumatori, all'associazione dei consumatori e alle istituzioni, noi abbiamo dato avvio in numerose parti d'Italia, quasi tutta Italia, hanno delle iniziative per stabilire le regole di comportamento, tanto del produttore, del negoziante, quanto del consumatore. Se no, siccome pensa che l'ho invitato per scherzo, vorrei raccontare quali sono queste regole proprio a Pasquale Giglio dalla Campania, che pure in questa regione ha adottato un'iniziativa per garantire ai consumatori. Giglio, molto brevemente, poi se riesco faccio concludere ad un paio di ascoltatori oggi. Sì, grazie, perché proprio su questo volevo intervenire, perché ho sentito un po' le perplessità dei consumatori circa, diciamo, la trasparenza sui saldi. Noi in Regione Campania, con il presidente Caldoro e il consigliere dell'attività produttive Fulvio Martuscello, abbiamo fatto un decalogo sui saldi, l'abbiamo approvato, e questo devo dire che va, come dire, a rafforzare l'attività che vengono fatte gli esercizi di vicinato e le piccole imprese rispetto alla grande distribuzione. Noi con questo decalogo che abbiamo, diciamo, approvato insieme alla Regione Campania, mettiamo in campo, diciamo, la trasparenza sui saldi e soprattutto anche la possibilità di poter cambiare dei capi difettosi e qualora, diciamo, nel caso in cui non ci sia la possibilità di poterlo cambiare con un capo in cui sarà preferito di poter avere un buono di uguale importo e poter poi comprarlo successivamente, cioè un po' più di elasticità del solito, insomma. Ma anche non da solo, parte qui c'è una garanzia totale che abbiamo firmato noi con la Regione Campania, e in più in molte province ci stanno attività un'attività, come dire, forte con il consenso delle associazioni dei consumatori. Certo, guardi Giglio, poi lo dico anche agli altri, non riesco a farli intervenire, la domanda di Diego da Firenze la sintetizzo io. Lui dice, ma questo ce lo raccontano tanti ascoltatori ad ogni sacrosanta puntata che facciamo su questo argomento. Allora, vado in un negozio di scarpe, prendo la scarpa come potrei prendere qualsiasi altro articolo merceologico, appunto, e vedo che lo sconto praticato è magari, che ne so, la scarpa adesso costa 100 euro da 130 qui era fino a qualche tempo fa. Magari però mi accorgo che quella stessa scarpa, per la verità, fino a qualche tempo fa costava un po' meno. Il commerciante, per dimostrarmi che applica un 30% di sconto, come dire, mette in vetrina un prezzo teorico di origine più alto per dimostrarmi appunto uno sconto più alto. Qualche ascoltatore denuncia un comportamento costante di questo tipo da parte dei commercianti. Torti, lascio concludere a lei. Guardi, non vorrei neanche rispondere, perché praticamente stiamo parlando di casi limite e soprattutto di casi che oggi posso dire così, domani, cioè proprio, io ripeto, se il 90% dei consumatori è contento della qualità che si compra dei capi acquistati, o scarpe in questo caso acquistate in saldo, vuol dire che almeno il 90% degli esercizi commerciali sono operano regolarmente. Diego voleva chiedere, ma se io mi accorgo che un commerciante fa così, cosa devo fare? A parte che gliele lasci lì le scarpe. Non comprarle. Ecco, perfetto. Non comprarle e vado dall'altro negoziante vicino che magari ha lo stesso paio, o un paio migliore o un paio diverso. Le posso dire, Torti, forse se lo ricorderà, non mi ricordo se c'era lei in trasmissione, si ricorda che qualche tempo fa un ascoltatore ci aveva raccontato che aveva fotografato il prezzo delle scarpe prima dell'inizio dei saldi e poi appunto si era accorto effettivamente di questa pratica un po' così curiosa del commerciante in questione. Vabbè, comunque ci ritorneremo, guardate che a luglio siamo di nuovo qua, anzi forse dobbiamo fare un po' tutto l'esame dei presaldi, delle vendite promozionali a giugno, quindi non torneremo neanche a luglio di nuovo su questo argomento. Intanto grazie a tutti e soprattutto buoni saldi a tutti, se potete divertitevi anche un pochino. A domani.